Sta da voi di dentro. Deve fare. Non ce ne voglia, lo so. Lo so che non ce ne voglia. Vabbè, una bottaglia tanto. Infatti. Che cazzo c'ha l'accento, però non mi fa di parlare, capito? Mi è passata la gana. Lo so che ti è passata la voglia, ma voglio tanto una chiacchierata, 5 minuti. No, di più, perché mi dammi fare voglia, ecco, tu, io l'accendo nell'apparire, certe volte ascolto, però non mi fare voglia di parlare, capito? Tutto lì, ecco. Però mi accendo, lo sto accendendo la sera. Molte volte vi ho sentito parlare, però non mi fare voglia di entrare, capito? Lo so, quando non ce n'è più voglia, no. Non si costringe a parlare, si ascolta, una già la metà da tirare l'altra. Quando si può va bene, quando si voglia va. Magari prima la riuscivo, però no, solo vivere voglia, ecco. Ascoltare, ascolta, però a parlare non mi viene voglia, tutto lì. Ma stasera, insomma, ho fatto a rispondere tutto. Perché mi hai sentito stasera. Anche se no, in genere, il giorno di festa, non la tengo nemmeno. Già mezz'oretta e più è acceso. Stavo ascoltando i 40 metri che c'erano i francesi e poi quelli che stanno facendo i conti, per cui stavo sempre ascoltando, dopo ho spento e ho acceso qua. Anch'io stavo ascoltando i 40 metri, ma poi non verrebbe nessuno, hanno girato, e allora mi sono spostato qua. Vabbè, fare. Dai, non fino a gara, no, capito, tutto lì. Però magari lo accendo sempre, perché è meglio accenderlo, no? Se no magari da voi se lo va a farsi benedire all'apparecchio, che ogni tanto lo faccio scaldare e magari ascolto così e poi dopo magari un quarto d'ora, mezz'ora spengo tutto e tiro a campare, solito. Sono finito con te, pittore, cosa vuoi fare? Infatti, sono finito così. Ogni tanto entra qualcuno, il più che entra è già nel doppio ruffo, quello che entra dopo le 7. Lui non manca mai, Lui anche prima delle 7 certe volte chiama, io lo sento chiamare, però non so, detto, non mi fate rispondere, ecco, è tutto lì. Però ascoltare vi ascolto, capito? È quasi tutto le sere quando ci siete, capito? E no, è così, sì. Ogni tanto. Quando si c'entra qualcuno in giorni ne entra molti, in giorni non entra nessuno. Ma è facile. La gente adesso magari ha anche tempo buono sarà attaccata a questo aggeggio, non è che fa tanto piacere, magari se ne va al mare o si svagano altre cose, eccetera, capito? Adesso il tempo bello, penso che anche come propagazione non è come prima, è diversa la propagazione, di meno, ecco. No, fino all'altro giorno ce n'era propagazione, infatti abbiamo risposto, Gianni anche ha risposto, che si sentiva più forte di me, si sono acciarati. Qualcuno già l'ho sentito. Sì, ma io non ci parlo, proprio magari all'ascolto e basta, tutto lì. Non mi fa, ecco, non mi fa. Piace ascoltare e basta, tutto lì. Non mi fa, per carità. E poi magari allora che tratti voi, la maggior parte c'è gente, ci sono le mie figlie che quando sera vengono verso le 7:15, se ne vanno anche alle 8:30, così che cosa fai? Ah, quello devo stare con i figli che è attaccato all'apparecchio. Ma infatti non è che posso lasciare a loro e io ce la appariscono, saranno io mi sono svagato, non ci sono due giorni mi sto, siete, ormai anche sotto pure dell'apparecchio, però mi piace sempre accendere, anche se non ci parlo, mi piace ascoltare, che è tutto lì, anche se non c'è nessuno, certe volte sono anche delle ore acceso. E magari mi appeggio al computer e così intanto va a svagarmi, capito? Sì, no, già è così, già è così, ogni tanto bisogna rilassarsi. Roger, my friend, lui che debba me la funzione di mare il presidente, me la funzione, l'ha già visto. L'ho controllato e gli ho fatto delle saldature, le ho fatte. Ma ha cominciato a rifunzionare come ti si dice. Non è che vuoi procedere tanto, cazzo. Da due giorni si trova l'apparecchio, per cui mi ha passato anche lui, dice che non sempre funziona tanto bene, ma qua sembra sempre a posto. Ogni tanto io lo cambio uno, metto l'altro, sono sempre così, ma era solo due giorni così, anche se non ci parlo, li accendo, magari dopo due o tre giorni ne metto un altro. Tanto per farlo camminare, se no magari se ne fanno un malore, capito? Se ne lasci fermi. Infatti è morito. Ogni tanto, ma era da un po' senza sentirlo, visto? È grande. Quindi adesso ho già visto che è stata la freccia a 5 anni. Ma quello preciso mio lo stai accendendo ancora tu? Ora ce l'avevo acceso sino a venerdì, ce l'avevo acceso. Già sto sempre funzionando bene. A voglia, caspita. Ho cambiato anche la capsula, anche il microfono che mi hai dato tu. Ho messo una di telefono, della cornetta di telefono gli ho messo. Funziona benissimo. Con quale apparecchio? Col presidente? Oppure con quale altro apparecchio? No, col presidente. L'ho provato e funziona benissimo. No, perché con quell'altro, preciso al tuo, non anda. Rimane cuffa, rimane. Ma strano, Strano che non va, cazzo. Ha sempre funzionato bene con tutti gli apparecchi, perché io ho adattato anche a cosa, anche a 140, a 440 quel microfono, e funzionava. Poi il solito era sempre attaccato al Comedy 3006 in campagna, ha sempre funzionato bene, ma forse perché magari tanti anni fermo e la capsula è andata mai in malora, capito? Però ha sempre funzionato bene. Gianni Maria ti dice che si sentiva tutto male. Ah, si è svegliato l'indomani, ha preso e gli ho cambiato la capsula, gli ho messo quella della cornetta di telefono. Ah, gli ha attaccato e mi ha detto che funziona chiara la voce. Quindi io ho lasciato quella. Se è chiara, è meglio così, ma hai fatto bene. Vuol dire che sono stato un grande malore quella capsula che c'era. Praticamente invece, infatti quello del telefono e le capsule sono buonissime. Io mi sembra che ne avevo un 2 o 3, mi sembra. Guardiola sono andato a quel negozio di Pinocchio, che c'era una usata, ho visto tre telefoni quelli e mi sono preso, ho tolto la capsula e ci l'avevo sempre, non so dove erano gli amici, ma ci sono le capsule in qualche posto, solo che non mi ricordo dove le ho messe. No, io ce l'avevo fatta, l'avevo recuperata da una cornetta, era rosso il telefono, ci ho preso la cornetta e ne ho tolto tutto il coso intero, mi ha tolto. Cioè, la coso grande per ascolto e la capsula piccolina. E l'ha già attaccata in ovvio. Sta riuscendo bene, abbastanza bene, infatti. Oggi ho sentito che stavo riuscendo basso e non tanto bene, sembrava fuori frequenza anche, sembrava, forse era il presidente che c'è, stavo con il presidente magari che stava andando male, cioè, ci sentivo male anch'io, stavo per entrare dopo molta gente e allora ho dovuto spegnere tutto. Ti ho sentito che stavo riuscendo non tanto bene? No, l'ho aperto e gli ho fatto le saldature ai fianchi per la massa. Ho visto che Gianni mi ha dato l'ok e funzionava benissimo e non mi ha dato più fastidio, forse erano le saldature che c'erano staccate. Va benissimo, allora meglio così, dai. E questo che mi sta facendo, questo è l'ultimo, no, il penultimo, quello grande però è quello che non c'è l'FM. Ah, sta facendo benissimo quello, a voglia. Il microfono, già lo sai che la stessa marca, che ti costa più il microfono della parecchia. I microfoni sono formidabili, so che c'è un bel... è un bel studio il palazzo, certo, non pensavo di costarsi così tanto, certo. E vabbè, ormai se il palazzo è dimenticato pure tu. Vabbè, detto dai, io ti ringrazio che ti ho sentito, mi ha fatto piacere, ci risentiremo magari più in là, va, quando ne voglia, tutto lì. Saluta Gianni se rientra, grazie alla piccola chiacchierata, anche se breve, fa piacere sto, buon piacimento. Ci risentiamo alle prossime, Gio Maria, a risentirci, ciao Gio Maria, stammi bene. Ok, ciao.